Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. «24 mattino» di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Sono gruppetti che si richiamano prima la squadra di calcio, poi adesso hanno cambiato per l'estrema destra, poi fanno gli pseudo rivoluzionari. Ieri purtroppo un uomo è stato ucciso perché la propria moglie è stata chiamata da qualcuno scimmia africana. Allora questo non va sottovalutato. Molte volte io mi interrogo e mi chiedo se non avesse la scorta cosa mi succederebbe, visto che anche un mese fa ho subito un'aggressione. Io non so cosa è successo ieri, poi impareremo e approfondiremo l'accaduto. E può essere verissimo che un balordo ha fatto una cosa terribile, ma trovo sgradevole, ma un pazzo, un balordo, un violento, chiunque l'abbia fatto. Senatore Giovanardi. Allora, se permettete, se permettete, se permettete, se permettete, io trovo... Senatore Giovanardi, le avevo dato la parola se voleva associarsi alla commemorazione. Se lei non sa di che cosa stiamo parlando, non credo che... Sono ancora libero di dirlo io in questo Parlamento. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Senatore Giovanardi, la prego di interrompersi. È stata data... Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine, non ha la parola. Senatore Carraro, prego. Senatore Giovanardi, la richiamo per la seconda volta. Senatore Giovanardi, ha la parola il senatore Carraro. Venerdì, signori, questo in tutto questo casotto è l'unica notizia positiva. Caro Paolo Corleoni, è venerdì, imparalo. Mentre Lorenzo Nespoli dice anche lui che è venerdì. E vabbè, insomma. Allora, signori, che dire, ci si divide, ci si... Figurarsi se in Parlamento non litigano anche per l'omicidio di una persona, di questo Emmanuel Nero. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Allora, sentite qui. Adesso è tutto un elenco sui giornali della cronaca. Pare che non sia... che sia stata, come dire... una rissa degenerata. Ovviamente, però, ovviamente c'è da dire che questi due marito e moglie che passeggiavano tranquillamente per Fermo sono stati aggrediti all'urlo di scimmia. Poi io non lo so cosa è successo. Effettivamente anche gli inquirenti lanciano questa ipotesi, cioè che questa povera persona che poi è stata uccisa ha partecipato attivamente, nel senso che ha reagito, c'è stata una scazzottata, pare che addirittura lui abbia preso il segnale, no? Un palo, buttandogliela addosso a questo signorotto che ora è accusato di omicidio, che ha 5 DASPO. I DASPO sono i divieti per andare allo stadio. 5 DASPO. 5. Sentite cosa dice il fratello del signor Amedeo Mancini, intervistato, raggiunto dalla stampa, da Paolo Crecchi. Sentite cosa dice. Due punti aperte virgolette. Di solito mio fratello Amedeo, quando vede un negro, gli tira le noccioline, ma lo fa per scherzare, perché è un allegrone. Ha avuto una vita difficile. Avete capito? Di solito gli tira le noccioline quando vede un negro, così testuale, un negro. Ha avuto una vita difficile e vogliamo anche stare a disquisire la rissa, ma quello ha reagito, ma è poco che ha reagito. Peraltro è morto. Anche perché sempre gli inquirenti dicono che quando c'è stata la scazzottata perché ha reagito, poi Emanuel pensava che fosse finita, insomma ha reagito, stava andando via e questo qui lo ha inseguito da dietro. Pare, dalle ricostruzioni, gli ha dato un pugno violentissimo, il pugno fatale. Questo poi stabiliranno, capito? Gli tirava le noccioline, in genere, il signor Cinque Daspo. Ah. Sono le 6:36 minuti, voglio subito convocare Silvia Brasca, buongiorno nel TG della Sesta. Ciao Silvia, ciao. Il clima è questo. Insieme a te voglio convocare il nostro scrittore Mauro Corona. Buongiorno Mauro, come va? Buongiorno a voi, va benissimo. Quando è che scriviamo un altro bel libro? Dovrebbe essere già in circolazione La Via del Sole, no? Vabbè, ho capito, un nuovo, ce ne sono tanti. Sì, è nuovo, uscito una settimana fa. Oh, da una settimana, questa me l'ero persa, ecco, questa è colpa mia, questa è colpa. La Via del Sole, bene. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento perché questo è il clima, cioè si parla di questo fattaccio di cronaca terribile. Poi i contorni si vedranno, però Corona... Capito? Sì. Le noccioline gli tirava, dice il fratello. Ma guardi, non è un caso sporadico, basta andare negli stadi a seguire una partita per capire a che livello è rinato e forse non era mai morto il razzismo, la xenofobia, la ferocia. Basta andare su fatti passati, basta pensare alla Kyenge, la ministra, cioè c'è un ritorno violento del razzismo, perché finché si tirano le noccioline può essere anche un caso infame o obbrobrioso, però potrebbe finire invece adesso si proprio si ha voglia di picchiare, cioè, mi preoccupa questo ritorno a una violenza proprio, la ferocia. D'altronde cosa pretendiamo? Guardi, io sono stato a poche partite, due partite, e sentivo, allora giocava Balotelli nel Milan, e sentivo dagli stadi, ma un'intera ala di stadio sporco, negro, e c'erano i bambini lì, bambini figli di questi che urlavano sporco, negro, forni crematori, questi bambini cresceranno con quella idea. Sì. Che lo negro è sporco, è un'eredità di idiozia e di ferocia, purtroppo, che se la passano da padre in figlio, e ce n'è molta. Sì, io purtroppo ho portato due volte già mio figlio Mattia allo stadio, gli ho fatto prima, no, Silvia Brasca, vabbè, è interista lei, vabbè, questo difetto, ma io l'ho portato Mattia due volte, gli ho detto se ti permetti di ripetere anche mezzo insulto che senti, perché ovviamente allo stadio a fianco c'è gente, allora c'era mio figlio, ha detto, ma quel signore ha detto che De Sciglio è un cretino, non ha sbagliato, non ti permettere, no, questo Silvia effettivamente, cioè, dice allo stadio, si dice così, c'è anche questo, scimmia, ma è un insulto da stadio. Proprio guarda che il Corriere riporta un virgolettato di Amedeo Mancini, che dice si usa così nel linguaggio da stadio, e quell'insulto African scimmia lui lo spiega come se fosse un'espressione normale, certo. Virgolette, roba che si urla negli stadi. Tanto gli tirava le noccioline, è un allegrone, no? È un allegrone. Sì, ma io tanto che te l'ho detto altre volte, che appunto negli stadi italiani purtroppo che io frequento ogni domenica, insomma. Se ne sento di tutti i colori. La domenica c'è una, no. Ecco, però diciamo, quello che dice Mauro Corona, secondo me, cioè il ritorno alla violenza, guardate che c'è un'aggressività in giro, effettivamente. Io poi vivo in una grande città, Milano, anche Silvia Brasca, insomma. C'è un'aggressività proprio primitiva, primordiale, no? Gente pronta a scattare, non vi dico, ai semafori delle strade. Ma che cavolo è, Silvia? Che cavolo è? Che c'è, un morbo? No, è vero, secondo me quell'aggressività stradale, insomma, da marciapiede, soprattutto a Milano, insomma, c'è sempre stata. Siamo abbastanza nervosi sul tempo. No, a me quella che fa impressione è quella dei social network, cioè il grado di aggressività, si parte subito oltre, cioè quando si parte oltre, e quell'aggressività verbale che secondo me proprio è indice di una pentola a pressione, insopportabile. Mauro Corona, mi sa che ci serve prendere un po' la zappa e sfogarla nei campi. No, è il prodotto di questa società frenetica dove si annuncia un uomo che non deve cedere mai, che deve sempre vincere, deve avere certe cose attorno, automobili, cioè abbiamo prodotto una società che non c'è, la si vorrebbe, e quindi la gente si sente defraudata, depredata di qualcosa, nervosa, irascibile, e come ha detto la Brasca sui social io non li frequento, ma social, quelli cosa sui social, ma mia figlia Facebook, si è laureata in queste cose e ogni tanto mi fa vedere, non so, quella ragazzina che disse, siccome è malata di cancro, disse che approvava la ricerca sugli animali, è stata massacrata. Non vi dico cosa nacque lì con non sono ripetibili, poi questa è morta, e quindi buona pace a questi socialisti dei social, noi socialisti di Craxi. Poi anche lo si nota anche con i venditori ambulanti, che ogni tanto sono anche noiosi, sono anche invadenti, gente di colore poverina che cerca di sbarcare il lunario. Basta vedere come io li vedo nel mio paese fuori, qui, maledetto negro. Sono cose paurose. Ma è una cosa anche un po' di paese. Cioè non siamo abituati, Corona, paesi. Non siamo abituati, non so, in Francia, per esempio, dove siamo abituati a convivere con tantissime persone anche di colore. Forse è meno, ci sono altre problematiche, però è meno diffuso questa idea. Nessuno forse si sognerebbe di tirare le noccioline, se no, non so, un fascista. Sì, vengono dai paesi dove c'è la sottocultura, non per colpa loro, ma si leggono poco, si informano poco, hanno questa mania del territorio. Sì. Noi siamo i più bravi, ma perché, quindi chi viene dentro lì, chi è quello, cosa vuole qui? È l'ignoranza. Sì, cioè, è l'ignoranza, esatto. Non so, Silvia, primitiva. Che dicevi? È l'ignoranza. No, io dico che esiste un problema ormai razziale enorme, cioè che si pensava, si sperava. E nel 2016 si vede quello che sta succedendo in America. Oggi negli Stati Uniti non so che cosa succederà. Ci sono anche 4 poliziotti assassinati, no, durante una manifestazione di protesta. Insomma, cioè, lì ribolle sono una questione razziale. Sì, no, hai fatto bene a dirlo, perché giustamente Radio 24, adesso già i giornali radio stanno informando, ma mentre andiamo in onda, siccome a Dallas è sera, a Dallas negli Stati Uniti, dove è stato ucciso un nero a un posto di blocco in maniera brutale, esatto, ci sono i video con la gente che ha detto, gli avevo detto di tenere, prima gli chiede i documenti in macchina, poi ha detto, gli avevo detto di tenere le mani ferme, e gli ha sparato 4 colpi, tutto riprese dalla fidanzata lì in macchina. Ci sono degli scontri a Dallas in seguito a questa vicenda, ci sono 4 agenti di polizia uccisi, questo proprio in questi minuti mentre stiamo parlando, insomma. Ecco, io però una cosa che non capisco è questa, non l'ho capita veramente. Gad Lerner dice bisognerebbe rimettere Cecil Kyenge ministro, come se questo possa, so, Silvia, tu che dici? Non lo so, più che un presidente nero negli Stati Uniti, e guarda negli ultimi 36 mesi cosa è successo lì con la polizia, tra New York e tutti gli episodi, c'è un problema. Sì, ho capito, ma col ministro Kyenge cosa risolviamo? Cioè, siccome mettiamo il ministro Kyenge... Cioè dobbiamo fare un ministro sull'integrazione, semmai, ma non è che dobbiamo mettere un ministro che è nera perché diventa un'icona. Non lo so, forse mi sbaglio adesso. No, non lo so, anch'io non so, non mi sembra che sia stata molto influente, ecco, nell'anno in cui, nei mesi in cui... No, poi io dico, voleva fare un ministro all'integrazione, educare i ragazzi, tutto bene. Non so, Mauro Corona, mi sbaglio, ma dire mettere un ministro siccome è nera, non lo so. Ma mi meraviglio di Gerd Lerner, sinceramente, che abbia detto questa cosa. Può risolvere la ministra Kyenge, cioè... Qui questa cosa mi preoccupa, è una cosa che non ha soluzione, perché non ci si aspetta mai. Io vedrei un'utopia, purtroppo vivo di utopie, che se non cresce il bambino, quando un bambino ha 3, 4 anni, 5 anni, sente il papà che dice alla mamma tu sta zitta, che non devi parlare, altrimenti ti do un ceffone. Il bambino lì è già inoculato, lui crescerà convinto che la mamma o la moglie, la futura moglie, se non pace le si debba dare un ceffone. Quindi costruire una società liberandoci dei nostri credi, dogmi, fedi, partiti, e crescere il virgulto, il bambino, alla tolleranza, alla carità. Ma certo, ma non è mettere il ministro. Comunque la sentiamo la Kyenge, la sentiamo. La responsabilità di chi comunica, che non è solo dei giornalisti ma anche dei leader politici, quindi cerca anche di far capire a chi deve comunicare, sanzionare anche le persone che utilizzano parole che aumentano l'odio in mezzo alla popolazione. Vabbè, la comunicazione è lì. Comunque, ministro Kyenge, non lo so, non tornerà. E dobbiamo però andare al traffico, poi parliamo un attimo di politica, dell'amico migliore di Mauro Corona, cioè il premier Matteo Renzi. È una battuta, ovviamente, perché sappiamo sì, no, già. No, ma è stato a casa mia, è stato. Ah, veramente? Ah, questa ce la deve raccontare tra poco, un attimo. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare. C'è del traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Pronto, Radio 24. Il programma La Zanzara. Posso parlare con Cruciani? Ah, è 24 mattina con Alessandro Milan. Vabbè, lo stesso. Caro Milan, buongiorno. La ciurma dei pirati era più onesta di questi nostri politici. Milan, ma anche tu cosa difendi alle 6:30 la mattina, Cicchito? Milan. Se ascolti bene, Cicchito gli dice che fate schifo e tu stai dalla parte di Cicchito. Cucumero. Male, non lo sai, detto? Bella voce, cesso atroce. Ah sì, beh, vabbè, insomma, bella voce atroce sarei io, cara Silvia Brasca, perché ieri un'ascoltatrice ha detto: ah, ma sognavo la voce, ma... poi ti ho visto su internet e mi è crollato tutto. Una foto in un secondo mi è crollato tutto. Era proprio disillusa, è partita poetica e disillusa. Vabbè, non è che sto con Cicchito, ma insomma la famosa domanda è la giornalista dell'area che tira, che va da Cicchito, gli fa una domanda, è vero, Cicchito reagisce nervosa e poi lei, in modo un po' isterico, anche lei si mette al piano di Cicchito, no? Fate semplicemente schifo che voi venite. Facciamo schifo, sì, ma ci sono voi, tutti con voi gli occhi, no, schifo. Lei non mi fa, guardi, non sono mi, non mi mettere, no, sì, dopo. Perché voi sono venite, qua a sì, parlarci ma soltanto, cioè, di questo. Cioè Cicchito dice voi fate schifo, ma la giornalista, ma che sei a fare una domanda? Vabbè, insomma, però è una della 7, quindi non, scusa Silvia, non, è bravissima, no, è fantastica. No, però volevo sapere questa di Mauro Corona, com'è Renzi è venuto a casa sua, proprio in casa o nel paese? Nel paese, allora quando vabbè, sono venuti in casa altri, c'è venuto Grillo, c'è venuto Salvini, è venuto Letta, è venuto Franceschini con la Serracchiani lì. Pare che io nella Valcellina possa spostare 7 voti. E adesso che sono in pecunia di voti, dicono: se siamo 50 pari, 7 voti ci fanno vincere. E quindi vengono lì a promettere monti e mari. Voti, beh, bello. Io 7 voti, per esempio, non so mica se riuscirei a spostarli. Ma lei non è mica Mauro Corona, appunto. Io sono un cialtrone usato ogni tanto, solo che io li schivo abilmente e sento le loro voci. Sento cosa mi pareva. un ragazzo per bene, proprio impegnato e convinto di dire. Tanto è vero che io l'ho votato, Renzi. A ottobre non lo voterò di sicuro. Pare a novembre, peraltro. Il referendum è stato sposto. Guardi, ve voglio dire cosa riferì Macedonio Fernandez, che fu il maestro di Borges. Gli chiesero un giudizio su Victor Hugo. Oh, Victor Hugo, disse Macedonio, un filosofo spiantato ma abile, un insopportabile parolaio. Il lettore se n'è già andato da un pezzo e lui è lì che continua a parlare. Io riferisco queste frasi a Renzi, solo che invece del lettore dico il cittadino insomma, è naufragato da un pezzo e l'insopportabile parolaio è lì. Poi c'è già tirare in ballo anche suo compare Napolitano che mi hanno sempre detto che il voto, l'esercizio del voto è un dovere. Poi quando c'era da votare contro le trivelle dissero non andate, tanto Renzi che Napolitano, adesso invece dite andate a votare votare. Ma io voto no, vota siccome no, lui si sta costruendo un esercito da giovanotti che propongono, io costruisco Corona, un esercito che provvoltino no. Sette voti della Valle vanno lo faremo crollare con quei sette. Silvia Frasca, riparte da lì la rivoluzione di Mauro Corona. Non lo so, però Silvia, lo vedi un po' in difficoltà Renzi? Cioè è andata la Mattarella. Altro che non è un bel momento. No. Cioè, la questione delle banche, oggi c'è quella copertina dell'Economist che fa davvero paura, cioè, anche se poi appunto l'Economist va un po' dalla sua parte, ma insomma vedere appunto il pullman dell'Italia in bilico su un precipizio come prossimo paura europea, insomma, nel racconto, nello storytelling di un'Italia buona, che cresce, che c'è e che è vero che c'è, è vero, no? Perché sennò saremmo crollati, però quelli sono mazzate proprio in quello, nel racconto che lui cerca di fare, indubbiamente, la storia di Alfano pesa. Vabbè, Corona lo vede un po', però una crisi di governo in questo momento ci fa bene, Corona, non lo so, guardi che qua ci sono le banche. Non ho quel livello di preparazione per capire sì o no, ma che faccia bene o male arriverà, Renzi si è fatto è contrariato dagli stessi suoi lì, non ha saputo calibrare, ha esagerato. Poi io nella mia piccola intuizione modesta vedo che si sta creando un feudo che poi sarà inaccessibile da tutti. Sì. E quindi questo mi fa un po' di paura. Beh, la gestione del potere in Italia è sempre un po' così, a feudi. Sì, però io poi non entra più nessuno. Però vorrei in chiusura dare una notizia un po' con un po' di afflato, ma anche un po' di cuore affranto, ecco, devo dire, perché riguarda Silvio Berlusconi. Ragazzi, non gliene va bene una. Repubblica racconta in un trafiletto che si è rotto due dita della mano chiuse nella portiera dell'auto. Io non lo so. E Silvia, ma cioè, ragazzi, ma è un momentaccio, ma Silvio Berlusconi, ma poverino, e mette giù il piede e si rompe il piede, e il cuore, cioè, le dita nella portiera. La portiera della macchina di Berlusconi, super blindata. Ci manca, pensa che bella portiera pesante. Che sia stata una guardia del corpo, a sbattergli. E a fracassargli due dita, ma Corona, Berlusconi, ma lo stanno facendo a pezzi, proprio letteralmente. Corona. Poverino, lo stanno facendo. Tocchi di Berlusconi stanno facendo. Poverino, pure le due dita. Niente. Un po' di solidarietà, niente, va bene. Dai, ci fermiamo qui. Allora, voglio ricordare La Via del Sole, eccolo qua, che ce l'ho, Mondadori, uscito Mauro Corona da una settimana. Voglio salutarvi, Silvia Brasca del TG della 7, povero Berlusconi, pure due dita lasciate nella portiera dell'auto. Mannaggia, ragazzi, momentaccio. Dai. Prezza matutina, celeste medicina. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere.